Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Naturalmente la Siria è in primo piano anche sul fronte europeo, dunque vertice in corso, aggiornamenti in arrivo. Intanto notizie che ci portano invece in Croazia, che come sapete dal 1 luglio è il 28esimo Stato membro dell'Unione Europea. Il processo di ingresso nell'Unione Europea è qualcosa di molto complesso, che richiede anni e che nel caso della Croazia ha imposto anche per il governo di Zagabria di affrontare dei temi delicati, spinosi, in particolare riguardo a quello che sono i criminali di guerra. Bene, a neanche due mesi dall'ingresso e dalle celebrazioni, ecco che la Croazia è proprio sotto i riflettori per un contenzioso con Bruxelles. Sentiamo. Sono appena sfumate le note delle celebrazioni per l'ingresso del 28esimo Stato che la Croazia già rischia sanzioni dall'Unione Europea. Il tema, il mandato d'arresto europeo. Bruxelles aspettava entro venerdì una risposta alla richiesta di estendere la validità della legge comunitaria a tutti i crimini commessi da croati ricercati negli altri paesi membri. Solo due giorni prima dell'ingresso nell'Unione, il 1 luglio, il Parlamento croato ha circoscritto invece l'applicabilità del mandato e quindi la possibilità di estradizione ai soli reati commessi dopo l'agosto 2002. È uno strappo alla fiducia, attacca Mina Andreeva, portavoce della commissaria alla giustizia Viviane Reding, che proporrà anche la sospensione dei fondi. La Commissione Europea ha per mesi aspettato che la Croazia si adeguasse. Il commissario Reding discuterà del caso, specifica la portavoce, con l'intero collegio la prossima settimana. E sullo sfondo conferma resta la possibilità di congelare gli stanziamenti, come i 450 milioni appena approvati dalla Commissione per la coesione. In attesa di una risposta ufficiale del governo, su Zagabria si allungano i sospetti denunciati dall'opposizione di centrodestra che questa limitazione al mandato d'arresto sia una protezione per Josip Perković, ex ufficiale dei servizi segreti della Jugoslavia, accusato di omicidio politico nel 1983 in Germania. L'esecutivo nega, ma comunque a soli due mesi dall'ingresso nell'Unione già rischia provvedimenti. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E noi restiamo in zona, infatti ci sono nuove tensioni nel nord del Kosovo. La comunità serba che vive nella regione non intende partecipare alle elezioni amministrative previste ai primi di novembre. Il governo serbo vuole che lo stemma del Kosovo indipendente sia ritirato dai seggi ed ha portato la questione alla riunione bilaterale a Bruxelles, ma il premier kosovaro Hashim Thaci cerca di evitare ogni polemica. In questo incontro ha detto: affronteremo le questioni tecniche relative all'applicazione dell'accordo raggiunto in aprile, un accordo che ha richiesto due anni di mediazione appunto sotto l'egida dell'Unione Europea. E a proposito di problemi, ce ne sono anche per le nostre foreste. Le foreste europee infatti sarebbero prossime al punto di saturazione di carbonio, secondo uno studio di esperti dei cambiamenti climatici che è stato presentato in questi giorni. La capacità dei boschi del vecchio continente di assorbire diossido di carbonio si riduce principalmente, secondo gli esperti, a causa della deforestazione. Eccoci qua dunque, in attesa degli ultimi aggiornamenti sul fronte siriano e naturalmente sulle posizioni europee in materia. Per ora è tutto, l'appuntamento con l'Europa torna domani intorno alle 13:10. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.